fango e dal sangue e da quel loro modo di fare viscido. Dal fango e dal sangue che coglie e ci coglie e poi perde e ci regala la sua destinazione, destinata a rifiorire. Triste e insipido nell'avvilirsi democratico del buon vivere buono, del bene per finta e per finta apparire. Io abito e non vivo, buono, silenzioso e regalo ogni mio intervento, io regalo ogni mio intervento, altrimenti ogni mia libertà costa battaglia, ogni mia libertà porta la sua dose di violenza, e questo l'ha resa più bella. Senza più venia da chiedere, né alcuno da condannare.